ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo sedicesimo. Il testamento di Pasqualino De Feo. Don Gennaro Parascandolo, lo strozzino, veniva da qualche tempo molto spesso nel portone di via Nardones e saliva per la grande scala, al secondo piano, dove egli filava il perfetto amore con una povera e buona ragazza. Un fiore di delicatezza e di ingenuità che egli aveva raccolto sopra un marciapiedi, una sera in cui questa misera creatura era lì lì per perdersi. Ed egli, con la sua solita prudenza di usuraio, anche nelle cose di amore, le aveva fatto credere di essere un impiegatuccio, vedovo e senza figliuoli, che l'avrebbe sposata certamente se ella si mostrava buona e fedele. La disgraziata Felicetta, il cui nome era un'irrisione, menava una via di reclusa, servita da una fantesca grossolana che era la sua unica compagna. E passava il tempo a desiderare la presenza del suo padrone e signore, di cui ignorava finanche il vero nome. E malgrado la sua ripugnanza fisica, si sentiva piena di gratitudine per questo buon Don Gennaro che l'aveva liberata dal pericolo di una caduta infame, promettendole di sposarla. Poi, più tardi, quando ella avesse finito il suo alunnato di virtù e di fedeltà. Era una personcina minuta e svelta, dai lineamenti assai fini, con una massa di capelli biondi che le tormentava la piccola testa, dispersa per il mondo così dalle bizzarre complicazioni del destino. Ella sarebbe certamente rotolata in un abisso se non avesse incontrato nell'ora tremenda Don Gennaro, che le aveva parlato con bontà, le aveva dato da mangiare, l'aveva accompagnata in un albergo e aveva finito per affittarle un modesto quartino in via Nardones, dove la povera figliuola passava il suo tempo a lavorare all'uncinetto, preparandosi il modesto corredo, attendendo la visita quotidiana di Don Gennaro, a cui ella sorrideva dalle labbra e dagli occhi, la buona figliuola. Del resto lo strozzino, che per andarla a trovare si levava gli anelli di brillanti, i bottoni d'oro e nascondeva i suoi portasigaretti di argento niellato, si mostrava paterno con lei. Ogni piccola elargizione, poiché egli la faceva vivere in una decente, solamente decente agiatezza, era fatta con tale accompagnamento di bei modi che a Felicetta gliene venivano le lacrime agli occhi. E malgrado che ella fosse la sua amante, Don Gennaro la trattava con sì profondo rispetto che ella andava cercando nel suo cuore ingenuo e riconoscente quale grande atto di devozione avesse potuto fare per mostrargli tutto il suo affetto. Don Gennaro, il durissimo strozzino che aveva visto tanti pianti e tante disperazioni senza mai commuoversi, era con lei di una tenerezza infinita. Le parlava spesso malinconicamente dei suoi tre bei figliuoli che erano partiti tutti per l'oscuro mondo degli spiriti. Egli diventava sentimentale, portandole dei fiori come un innamorato timido e giovinetto, raccomandandosi che pregasse per lui nelle sue preghiere e anche per i piccini che erano morti. Egli soggiungeva, volendo unire bizzarramente quei due amori così diversi. «Per essi non serve», rispondeva Felicetta umilmente. «Sono angeli». A poco, Don Gennaro si era addentrato moltissimo in questo amore, più di quanto avesse voluto, e pur usando tutte le precauzioni perché nulla trapelasse dell'esser suo a Felicetta e perché nessuno venisse a sapere i suoi amori con la fanciulla povera, non si poteva vincere. Il suo cuore di uomo maturo, esperto della vita, fiammeggiava di una passione giovanile e veniva adesso ogni giorno nella casa di via Nardones, variando le ore, ma passandone molte nella compagnia semplice e tenera di Felicetta. In quella fine di estate tempestosa, egli aveva anche rinunziato al suo consueto viaggio autunnale e veniva dimenticando la prudenza, portando dei doni più ricchi alla ragazza, che li riceveva un po' meravigliata. Ma egli le aveva spiegato che aveva fatto una piccola eredità, piccolissima. «E allora sposiamoci», aveva detto timidamente la giovane che sentiva la pena della sua posizione. «Faccio venire le carte dal mio paese», aveva risposto Don Gennaro, sospirando, rimpiangendo nel fondo dell'anima di essere ammogliato. Ma In un giorno festivo, in cui egli, dopo aver fatto vani giri, era sceso da Sant'Anna di Palazzo a Via Nardones, portando in mano una cartata di dolci per la sua innamorata, mentre saliva le scale, si era sentito alle spalle come un richiamo, come un sibilo che lo inducesse a volgere la testa. E si volse, infatti, sebbene non avesse ben definito se fosse un fischio o una voce o un forte cenno che avesse attratta la sua attenzione. Era stata una chiamata misteriosa, ecco tutto, una di quelle voci che sorgono dal fondo dell'anima. Ma per quanto guardasse intorno, sotto e sopra, affacciandosi alla ringhiera, egli non vide nulla, non scorse nulla. E seccato di essersi trattenuto in quella scala, dove temeva sempre di essere scoperto, affrettò il passo ed entrò rapidamente in casa di Felicetta. Pure, durante tutto il tempo della visita, fu turbato. Gli parve che la sua felicità, di cui il segreto era la base, fosse crollata per quella voce che lo chiamava. Difatti, il giorno seguente, proprio sotto il portone, incontrò il marchese di Formosa, che usciva dalla scaletta del quartino e aveva l'aria di un trasognato. Giusto non si parlavano più, sebbene si conoscessero. E in quel giorno entrambi imbarazzati si fermarono, uno di fronte all'altro, sogguardandosi con sospetto. «Sempre in affari?» mormorò il marchese Cavalcanti, con la sua voce rauca che produceva un effetto di emozione, poiché pareva sempre che egli avesse perduto la voce per la collera. «Come voi, del resto», rispose ambiguamente don Gennaro. «Io non ho affari», replicò Formosa, sempre più incerto e diffidente. «E sta bene la signora Parascandolo?» «Benissimo», disse subito don Gennaro, supponendo un'insidia in questa domanda. «E la marchesina Cavalcanti come sta?» «Sta un po' male». «Un po' male», disse il vecchio curvando la testa. «Buongiorno, marchese», replicò subito Parascandolo, profittando di quel minuto per allontanarsi. «Buongiorno, cavaliere», salutò il vecchio, seguendo macchinalmente con l'occhio l'usuraio. Costui saliva lentamente per la scala grande, orribilmente annoiato da quell'incontro, pensando già a far cambiare casa a Felicetta, trasportandola in un quartiere remoto, e rallentava il passo per udire se il marchese si informasse dal portiere dove saliva don Gennaro Parascandolo. Ma il marchese era sparito via. Pure don Gennaro restò pensoso. E quando andò via, dal pianerottolo del primo piano, gli parve scorgere due persone di conoscenza scendere dalla scaletta del quartino: l'avvocato Marzano e Ninetto Costa. Costoro, infervorati in una discussione, non lo videro o finsero di non vederlo, perché gli dovevano molti denari e già la carta bollata si ammucchiava contro loro. Ma l'usuraio fu sconcertato. Sentì aggravarglisi intorno il mistero, mentre un'ardente curiosità lo vinceva di sapere la verità. Tanto che il giorno seguente, dopo aver girato tutta la mattina per trovare un nido in quel campestre quartiere fra il Corso Vittorio Emanuele e Piedigrotta, ritornando a dirglielo, si fermò apposta per le scale aspettando il fenomeno. E lo stridio, lo zufolio, la voce segreta si manifestò come un richiamo soffocato. Egli aguzzò la vista intorno. Questa volta vide. Vide dalle due finestre del quartierino che davano sul cortiletto, una sbarrata e l'altra con uno scuretto socchiuso, un volto emaciato e disperato, che gli dardeggiò un'occhiata supplichevole. Poi il viso sparve subito e restò una mano magra che agitava un fazzoletto bianco in atto di chiamata. Anche la mano sparì. Lo scuretto si chiuse violentemente e la finestra fu sbarrata come l'altra. Don Gennaro si voltò per scendere subito giù, per andare al quartierino isolato, ma si fermò poi perplesso. E che gliene importava a lui di quello che accadeva colà? Chi era colui che appariva carcerato là dentro? Se ne ricordava vagamente la fisonomia, appena intravista. Non sapeva. Si trattava di un estraneo. Ma, estraneo o no, la naturale prudenza di don Gennaro prendeva il sopravvento. Forse era meglio andare a denunciare il fatto alla questura. Anche questo proposito subì un pentimento. Con la questura, per tante ragioni, era meglio non averci da fare. Ma infine quell'idea che qualcuno era chiuso colà, che da giorni invocava il suo soccorso, che forse sarebbe perito senza il suo aiuto, gli dava un gran rovello. Si trattava di un delitto misterioso. La sua curiosità di meridionale ardeva e il suo sangue freddo di uomo, che ha visto molte brutte scene, lo incoraggiava ad aiutare quell'infelice. Finalmente discese e, attraversando il cortiletto, salì quella scaletta tutta umida e smussata. Dopo averci pensato un minuto, bussò. Il campanello stridette lugubremente, senza che nessun rumore venisse di dentro. Bussò di nuovo, silenzio profondo. Allora, alle tirate di campanello, alternò delle bussatine col pomo d'argento della sua mazzetta di ebano. Il silenzio era veramente di casa disabitata. Due volte, abbassandosi al buco della serratura, gridò: «Aprite, per Dio, o vado a denunziarvi alla questura!» Alla seconda volta, quando aveva gridato più forte, gli era parso udire un sussurrio dentro. Aspettò ancora. Nessuno venne ad aprire alla fortissima scampanellata che diede. E allora si mise a scendere gli scalini, deciso a far intervenire l'autorità. Fu all'ultimo scalino che incontrò nuovamente il marchese Cavalcanti. Costui levò la testa e, riconoscendolo, impallidì. Pure ebbe il coraggio di chiedere: «Come qui?» «Vi è un guaio qua sopra, marchese», disse freddamente l'usuraio, accendendo una sigaretta. «Io me ne vado dal questore». «Che questore? Che questore?» balbettò il vecchio, preso da tremore nervoso. «Vi dico che quassù è accaduta o va ad accadere una disgrazia, e siccome sono un galantuomo non posso permetterla. Volete venire anche voi dal questore?» E lo guardò nel bianco degli occhi. «Don Gennaro, non esageriamo, forse si tratta di uno scherzo fra amici o di una giusta punizione», disse Cavalcanti esaltandosi. «Io non voglio sapere niente. So soltanto che un uomo mi ha cercato aiuto. So che ho bussato e non mi hanno voluto aprire. Che esagerazioni mi andate contando? Queste sono cattive azioni!» «Andiamo, andiamo. Vi farò aprire io», disse il marchese, decidendosi a rendere meno aspra la catastrofe oramai accaduta. E silenziosi risalirono insieme. Formosa bussò a due lunghi squilli, il segnale di riconoscimento. «Chi è?» domandò una voce soffocata, parlando nel buco della serratura. «Io, dottore, aprite pure. Ma non siete solo. Non importa, dottore, aprite. Se non siete solo, non apro, capite?» disse collericamente Trifari, il carceriere di dentro. «Aprite, che è meglio per tutti, dottore», parlamentò ancora il marchese di Formosa. «Se non aprite, la rovina è peggiore. Qui Don Gennaro para scandalo, sa tutto e vuole andare dal questore.» «Tanto non me ne vado, dottore», disse di fuori Parascandolo. «Non faccio che mandare a chiamare le guardie e i carabinieri.» «Gesù, Gesù, Gesù», mormorava Formosa, preso da un tremore senile. Si udì un passo che andava e veniva, poi un lento smuovere di catenacci negli anelli e la faccia rossastra, dal lungo pelo rossastro incolto, cresciuto ineguagliamente, comparve dalla fessura della porta. «Aprite! Aprite, dottore!» ghignò lo strozzino entrando senza vedere la truce occhiata che gli lanciò Trifari. Entrando, vi afferrava all'inario un puzzo di petrolio fumicante, di cucina fatta in un posto senz'aria, di persone poco pulite che vivono chiuse da molto tempo. L'anticamera e il cosiddetto salotto erano più che mai sporchi di polvere, di fumo di lampada, di molliche di pane, di bucce di frutta. Pareva la casa il covo di due animali ricacciati per giorni e per settimane nella loro tana dalla paura del cacciatore. Sopra una seggiola smunto, con le guance scavate, le nari assottigliate, le orecchie senza sangue, con le livide labbra schiuse quasi gli mancasse il respiro, l'assistito giaceva disteso, le membra rilasciate, la barba diventata più lunga e più sudicia, i capelli che gli piovevano brizzolati sul collo. Trifari, per farlo stare su, gli dette dei pugni, in un braccio e in una spalla. Una novella espressione di dolore si disegnò sulla faccia del disgraziato impostore. «Ma che fate, dottor Trifari? Non vi vergognate?» gridò Don Gennaro scandalizzato. «Mi fa sempre così, in tutte le ore del giorno», mormorò l'assistito con un filo di voce. «Fatevi coraggio. Ora verrete via con me», disse lo strozzino, porgendogli una fialetta di cognac che portava sempre addosso. «Ah, Non ne avrò la forza, cavaliere mio, disse l'altro fiochissimamente. Mi hanno ammazzato, chiuso, senza aria, senza luce, in questa puzza che muove la nausea. Spesso digiunando o mangiando malamente, tormentato ogni ora per dare i numeri certi, spesso bastonato da questa iena del dottore che il Signore ha fatto nascere per i miei peccati. È un'agonia, don Gennaro, io sono in agonia. Come avete potuto fare questo a un uomo, a un cristiano? Disse severamente don Gennaro guardando gli altri due. Vedete chi predica, disse Trifari, la cui sfacciataggine era indomita. Voi, marchese, che siete un gentiluomo? Chiese Parascandolo, fingendo di non voler parlare con Trifari. Che volete? La passione è troppo grande, disse il vecchio, tutto raumiliato, fremendo anche per altri ricordi. In questo erano entrati nel gabinetto, dalla porta lasciata aperta, Colaneri, il vipereo professore e don Crescenzo, il postiere. Nel vedere un estraneo, nel riconoscere don Gennaro, intesero tutto. Si guardavano turbati, specialmente don Crescenzo, che era un ufficiale del governo, come egli diceva. L'usuraio freddo continuava a fumare le sue sigarette, mentre l'assistito, stremato di forze, aveva abbandonato la testa sulla spalliera della sedia. Quella casa, che era stata il carcere di un mese, adesso aveva anche l'orrido aspetto della sordidezza, e quella luce artificiale di lampada in pieno giorno stringeva il cuore, simile a una fiamma di cere intorno a una bara. In realtà, don Pasqualino pareva un morto. «E vi siete messi in tanti contro uno?» domandò lo strozzino senza rivolgersi direttamente a nessuno. «Perché non ha dato prima i numeri?» strillò Colaneri raggiustandosi il colletto con un moto pretino. «Nessuno gli avrebbe fatto niente!» «Ma queste sono cose da galera, capite?» disse l'usuraio assai freddamente. «Non parlate di galera voi!» fischiò la voce dell'ex prete. «Voi ci dovreste andare 20 volte!» L'altro si strinse nelle spalle e... «Don Pasqualino, avete la forza di levarvi?» chiese all'assistito. «Vi voglio portar via.» I quattro si guardarono, subitamente pallidi. Era naturale che, scoperta la cosa, l'assistito se ne andasse. Ma l'idea che egli venisse tratto all'aria aperta, in libertà, potendo andare e venire, raccontando quello che gli era accaduto, sfuggendo alle loro vessazioni, li gettava in un profondo sgomento. «Ma non ho la forza di muovermi, cavaliere», disse don Pasqualino lamentandosi. «Se mi volevano uccidere, non potevano trovare un miglior modo e Dio glielo renderà a tutti». E sospirò profondamente. Bussarono 2 volte alla porta e altre 2 coppie entrarono, Ninetto Costa e l'avvocato Marzano, Gaetano il tagliatore di guanti e Michele il lustrino. Mentre l'assistito si cercava nelle tasche per vedere se avesse un lacero fazzoletto e certe carte sudice che portava sempre addosso e poi si metteva l'ignobile cappellaccio, i cabalisti si erano riuniti in un gruppo, ma non parlavano fra loro. Ciò che egli aveva detto loro nel suo senso vero e in quello simbolico, come insinuazione, come consiglio, li aveva profondamente turbati. «Signori miei, iddio vi perdoni!» esclamò con un bizzarro accento e con un lieve sorriso l'assistito andandosene. Lo salutarono appena, dandogli un'occhiata di rimpianto. Nessuno di loro osò scusarsi per il male che gli avevano fatto. Ognuno di loro sentiva nell'anima ribadirsi il chiodo che l'assistito vi aveva messo. I due scendevano piano piano la scaletta, poiché l'assistito minacciava sempre di cadere. Fino a dargli il braccio, l'usuraio non vi era giunto, poiché l'assistito era troppo, troppo sporco. Quando costui apparve sulla soglia del portone e si guardò intorno, assorbendo l'aria libera, gli vennero le lacrime agli occhi. «Credevo che non sarei più uscito», disse, salendo nella carrozza. «Dove volete andare?» chiese Parascandolo. «Alla questura», disse l'altro, nuovamente con voce fioca, sdraiato nella carrozza come un infermo grave. Don Gennaro aggrottò lievemente le sopracciglia e, per non darsi in spettacolo alla gente, fece sollevare il soffietto della carrozza. Si avviarono a via Concezione. «Volete denunziarli?» domandò freddamente. «Voi non sapete che torture mi hanno inflitto», mormorò l'altro, battendo col capo contro il mantice a ogni scossa della carrozza come se non reggesse il capo sul collo. «Dunque li denunziate?» «Per 30 giorni. Un infelice, ammalato, chiuso, senz'aria, con un lume a petrolio puzzolente, mentre anche quelli che hanno commesso dei delitti escono a passeggiare. Ma perché non avete loro dato i numeri?» «Per questo», disse l'altro enigmaticamente. «Don Pasquali, voi i numeri non li sapete», disse Don Gennaro ridendo. «E a voi che ve ne importa?» «Proprio niente. Ma con me dovete parlare franco.» «Sì, signore. Sì, signore», disse l'assistito umilmente. «Ma essi perché mi hanno buttato alla morte? Che avevo fatto di male io, povero innocente?» «Don Pasquali, voi vi siete mangiato varie migliaia di lire di quei signori», continuò sullo stesso tono ridendo l'usuraio. «Elemosine, cavaliere mio, elemosine. Proprio tutte elemosine? Proprio tutte elemosine proprio?» ghignò satanicamente Don Gennaro. «Qualche piccola cosa per me», sospirò Don Pasqualino con un lampo di acquiescente malizia negli occhi. «E allora è inutile salire alla questura. Andiamoci, Don Gennaro. Andiamoci lo stesso, che sarete contento di me.» Scesero innanzi al gran portone nella via Concezione, dove andavano e venivano le guardie di pubblica sicurezza. Una fatica enorme fu salire le scale. All'assistito gli mancava il fiato a ogni scalino. «Un poco di forza», ripeteva l'usuraio. «Non mi lasciate, non mi abbandonate», sospirava l'assistito. Alla fine giunsero al primo piano, dove Don Gennaro, salutato rispettosamente dagli uscieri, chiese se vi era il questore. Non vi era. Vi era il suo capo di gabinetto, che li fece entrare subito, che si sprofondò in cerimonie. «Vi è qui il signor Pasqualino De Feo che vuol fare una dichiarazione», disse l'usuraio mettendosi a fumare una sigaretta dopo averne offerta una al capo di gabinetto, guardando negli occhi l'assistito. «Volevo conoscere», disse costui flebilmente, «se qualcuno è venuto a dichiarare la mia sparizione.» L'ispettore prese un grosso registro e lo sfogliò fumando. «Sì, signore», disse. «È venuta Chiara Stella De Feo, abitante alle 100 grade, moglie di Pasqualino De Feo, a dichiarare l'inesplicabile assenza di suo marito temendo un sequestro o una disgrazia.» «Ma che sequestro? Che disgrazia?» esclamò l'assistito sorridendo ironicamente. «Le donne fantasticano sempre. Ha detto che foste sequestrato altre volte, senza volere o saper precisare le circostanze.» «E perché mi avrebbero sequestrato?» «Per strapparvi i numeri del lotto.» «Mia moglie ha detto che io so i numeri del lotto?» disse con un lieve riso l'assistito. «Non gli credete, ispettore, sono frottole», soggiunse Parascandolo ridendo. «Volevo dichiarare, a scanso di equivoci, che trovandomi a Palma Campania, qui, in villa del cavaliere Gennaro Parascandolo, mi ero così ammalato da dovervi restare un mese senza aver modo di poter scrivere a mia moglie. Poi contavo di tornare ogni giorno.» «Voi testimoniate che è la verità, cavaliere?» disse sbadatamente, senza darvi importanza, l'ispettore. «Sì, signore.» «E allora tutto va bene.» «Vi avrà dato i numeri, cavaliere, in questo mese di malattia?» chiese sempre ridendo l'ufficiale di polizia. «Sicuro», affermò Parascandolo in pieno buon umore. «Ma a voi che servono? Non dico di noi poveri impiegati.» «Don Pasqualì, se avete la forza, date i numeri all'ispettore.» «Ma voi mi volete burlare?» mormorò l'assistito. Si licenziarono, mentre l'ispettore raccomandava a De Feo di andare subito da sua moglie, che doveva stare in pensiero. «Avete visto se vi ho servito bene, cavaliere?» Ho perdonato a quelli che mi hanno offeso. E scendevano le scale. Siete troppo buono, rispose l'altro con una velatura d'ironia. Non voglio farmi un merito, che non ho. Non avrei mai denunziato quei signori. Ah, disse l'altro, fermandosi. E perché? Non mi conveniva. Capisco. E allora perché siamo venuti? La dichiarazione era necessaria. La questura mi cercava. Così ingenua è vostra moglie? Mia moglie. Quella mi vuol tanto bene, che trema sempre per me e dice sempre che ci dobbiamo ritirare dalla professione. E che professione fa? Non lo sapete? Ah, è la famosa fattucchiara delle 100 grade, Chiara Stella. Ah, sì, sì, mi ricordo. E le sue fatture sono come i vostri numeri? No, le sue fatture sono vere, disse pensosamente, sinceramente Don Pasqualino. E lei ci crede alla vostra assistenza? Sì, ci crede, disse l'altro chinando il capo. Mia moglie ha per me una grande passione. Per voi? Per me. Siete curiosi voi altri, disse lo strozzino filosoficamente. Intanto li avete salvati, quegli 8 furfanti. Che salvati, salvati. Avete inteso i consigli che ho dato a tutti loro? No, rispose Don Gennaro, sorpreso dal tono perverso di quel discorso. Ho lasciato loro un ricordo. A ognuno, continuò lo spiritista, la cui voce si era fatta stridula. E vi obbediranno, credete? Com'è certa la morte, disse l'assistito lugubrimente. Salutò Don Gennaro e, quasi rinvigorito, si avviò prestamente verso Piazza Municipio. Quello lo guardò andar via e per la prima volta sentì il ribrezzo che dà la glaciale malvagità.